Gennaio bianco e forte, intanto s'affacciava, con gli orologi e lo spumante in mano, coi botti che fischiavano da qualche settimana, mia figlia che aspettava la Befana. Passa l'Epifania, diventa storia vecchia, qualcuno già si maschera e si specchia, e c'è chi non si trucca perché ha la faccia bella e per la strada incontri Pulcinella. E i vecchi che si litigano il sole, che si concede a spicchi e all'improvviso, in fila col cervello alla pensione, a volte puoi strappargli anche un sorriso. Passato per le cliniche di medici burloni, che ancora grandi giocano ai dottori, fa primavera a mare col vento e gli acquazzoni, si chiama marzo e stuzzica gli amori. Lo vedi da lontano, frizzante ballerino, con la maglietta corta e un fiore in mano, coi prati che si riempiono copiati dai pittori, e viva aprile, figlio dei colori. E i vecchi che si invecchiano a tresette, di vino falso e di rassegnazioni, mani tremanti messe ormai alle strette, e un giorno ci ammazzavano i leoni. Maggio con la Madonna, le ferie anticipate, da chi sente nell'aria un po' d'estate, dall'altra parte nevica come ieri mattina, coprendo i morti e un'isola argentina. Si provano i costumi specchiandosi di lato, qualcuno è rosso e al mare già c'è stato. A giugno sulla spiaggia inseguo un aquilone e inseguo i versi giusti a una canzone. E i vecchi che diventano un problema, quest'altro mese dove rimandiamo? Ma è delicato, non sai cosa dirgli, e un giorno siamo stati i loro figli. Son piene ormai spiagge da Rimini a Tropea, eppure dove un giorno sbarcò Enea. Son piene di turisti, di donne e di bambini, e viva luglio, il mese dei bagnini. S'affaccia all'orizzonte la prima nube strana, è agosto già da qualche settimana. Si scambiano il telefono, Dio degli innamorati, le ragazzine e i prossimi soldati. E i vecchi che ci guardano finire le ferie al mare, ai monti o alla collina, ci guardano e a me sembra voglian dire, per noi è finita tanto tempo prima. È il mese delle vergini confuse e sfortunate, delle ultime magnifiche giornate. È tempo di tornare a fabbricare soldi e a vivere di nuovo coi ricordi. Settembre è andato e lascia timidi colmi d'uva, poeti nuovi e nuove facce a scuola. Vorrei tornare a vivere la puzza di quegli anni, purtroppo capita una volta sola. E i vecchi che non trovano parole e lasciano i discorsi all'imbrunire, fanno ritorno a casa se Dio vuole, eppure chissà quanto hanno da dire. Si portano montagne di fiori e di lumini, la gente si ricorda che si muore. Tra i camposanti e l'anima al lume dei cerini, due lacrime sputate con il cuore. Natale ormai le porte, si cerca di invitare per il cenone e per poter brindare. Con lo stipendio doppio volato in allegria, che insieme all'anno vecchio è andato via. E i vecchi che ci guardano incantati, che sanno che è soltanto tutto un gioco, la guerra, i soldi e tutti i suoi soldati, che in fondo dura tanto tanto poco. E i vecchi che ci guardano stupiti, come per dire l'ho già fatto io. E quando i giorni belli son finiti, di nuovo tutti, tutti in braccio a Dio.